Con Roberto Alperoli, direttore della 14ª edizione del Poesia Festival in 9 comuni modenesi dal 17 al 23 settembre. Roberto, ben trovato. Buongiorno, grazie dell'invito. Presentaci il festival. Questa è la 14ª edizione del Poesia Festival che si svolge appunto dal 17 al 23 settembre in 9 comuni della provincia di Modena, e li abbiamo già citati: Castelfranco Emilia, Castelnuovo, Castelvetro, Guiglia, Marano, Modena città, anche Savignano, Spilamberto, Vignola e Zocca, così li abbiamo citati tutti. Dura una settimana, ci sono circa una cinquantina di appuntamenti e i poeti coinvolti sono una sessantina. Dal festival in questi anni sono passati tutti i maggiori poeti italiani. Ricordo solo che la prima edizione del 2005 è stata aperta dal grande Edoardo Sanguinetti e molti poeti stranieri. Quest'anno ne cito soltanto alcuni perché non posso raccontare tutto il festival in un tempo brevissimo. Ci saranno Giuliano Scabbia, Ciandra Candiani, Valerio Magrelli, Roberto Pazzi, Marcello Fois, Daniela Attanasio e tanti altri. Una caratteristica del festival è sempre quella di dare anche spazio ai ragazzi giovani, a poeti giovani, e anche quest'anno i giovani non mancheranno. Ci sarà Giovanna Vivinetto, che è un po' il caso poetico dell'anno, e diversi collettivi, perché una modalità dei ragazzi, in particolare dei ragazzi più giovani, è quello di proporre la poesia attraverso voci vicine, per cui si presentano sul palcoscenico in 3, 4, 5. Ci saranno i Modena City Rimers, che sono in 7, e il collettivo Cardiopoetica, e diversi altri ragazzi anche. Una caratteristica del festival è sempre quella di proporre anche musicisti e cantautori che hanno un rapporto stretto con la parola. E uno dei principi è sicuramente Angelo Branduardi, che ha musicato un intero album diversi di Yeats e anche di Esenin. Poi ci sarà anche Fabio Concato, ci sarà Gammon, ci sarà James Senese, il grande sassofonista e pilastro del gruppo di Pino Daniele. Ci saranno diversi appuntamenti dedicati a grandi poeti, ma che continuano ad essere vivi con i loro versi, come Pablo Neruda, Arthur Rimbaud, Simmu Hini, Umberto Saba, grandi poeti della Romagna, da Pascoli a Tonino Guerra, a Raffaello Baldini. Ci saranno alcune cose abbastanza particolari, alcuni spettacoli abbastanza particolari di cui siamo molto orgogliosi. In particolare ne voglio citare uno, Lo Stallo, scritto da Sandro Luporini, che è lo storico collaboratore di Giorgio Gaber, colui che ha scritto tutti gli spettacoli assieme a Gaber dal Signor G in poi, che dopo 20 anni di silenzio ha scritto di nuovo uno spettacolo di teatro canzone con monologhi e canzoni che ha affidato a Davide Rondino e che verrà a presentare proprio sul palco. Poi ci sono seminari e laboratori per bambini e ragazzi, questo l'ho già detto, però ci tengo a ribadirlo, perché il festival non è uno sparo nel buio, nel senso che no, certo c'è una volta all'anno e dura una settimana, ma poi nel corso dei mesi lavoriamo sulla poesia in un modo esteso, in particolare con le scuole elementari e le scuole medie, per cui anche all'interno del festival ci saranno diversi momenti dedicati a loro. Poi ci sono, ecco, almeno un paio di incontri, se ho ancora un Come attimo no? di tempo, li voglio citare, perché attraverso la poesia parliamo anche di temi apparentemente lontani alla poesia. Ecco, un evento è dedicato alla fine della vita, alla poesia e alla cura del lutto, in cui ci sarà il sociologo Marzio Barbagli, la psicoanalista Lella Lavasi Bellocchio, il poeta Stefano Dal Bianco, e con loro indagheremo il potere, la capacità, la forza che ha la parola poetica di curare il lutto, di dare parole al dolore, dunque in questo modo di condividerlo e dunque in questo modo di sostenerlo meglio. E un appuntamento dedicato al 68, siamo quest'anno il 50º anniversario, sono usciti tanti libri, se ne è parlato parecchio, ci interessava costruire un momento di riflessione sul rapporto tra la poesia e il 68. Ci sarà Franco Cordelli, Renzo Paris, la filosofa Claudia Baracchi, che indagherà quanto appunto della carica innovativa femminile nella moralità e nell'etica contemporanea. Una curiosità, come mai l'idea di un festival diffuso in 9 luoghi? Perché, detto molto sinceramente, il festival è iniziato nel 2005 mentre io facevo il sindaco a Castelnuovo Langone, che è uno dei 9 comuni appunto, e che all'epoca era parte dell'Unione Terre di Castelli, che comprendeva soltanto 5 comuni: Vignola, Spilamberto, Castelnuovo, Savignano e Castelvetro. Ho condiviso questa idea con i miei colleghi, che appunto erano i sindaci degli altri 4 comuni, e era un'idea che affascinava tutti, anche perché sulla poesia nel 2005 c'erano, anche adesso a dire la verità, non ci sono moltissimi festival, moltissimi appuntamenti significativi. Dunque è partito da subito dai 5 comuni, perché è stato promosso da subito dall'Unione Terre di Castelli, che comprendeva 5 comuni. Poi l'Unione si è allargata nel frattempo, è arrivata anche a Zocca, paese di Vasco Rossi, che è il comune più in alto, e ci siamo allargati anche a Castelfranco Emilia, che è un comune piuttosto grande tra Modena e Bologna. Qual è lo stato oggi della poesia? Ma l'impressione che noi abbiamo è che lo stato della poesia sia assolutamente buono, e che non si possa misurare soltanto sulla base dei volumi venduti, perché i libri di poesia non sono mai andati a ruba, non hanno mai venduto decine e decine di migliaia di copie. La poesia però è molto presente tra i giovani, soprattutto sul web, perché c'è un bisogno di parole autentiche in una quotidianità così rumorosa e così assordante. C'è un bisogno di parole autentiche, un bisogno di parole con cui poter nominare i sentimenti che si attraversano, e che poi non a caso la poesia, insomma, è il linguaggio ed è il modo di essere più antico degli uomini, che è una forza che si ripropone attraverso i secoli, e anche oggi abbiamo l'impressione che, proprio perché è così forte il rumore di fondo ed è così forte il rischio di diventare sordi, che il bisogno di una parola potenziata, il bisogno di una lingua che purifichi la parola, è fortissimo. Dunque io e noi, non parlo soltanto a nome mio, ma parlo anche a nome di Alberto Bertoni, Roberto Galaverni, Emilio Rintocchini, Andrea Candeli, che sono i membri del comitato scientifico, pensiamo davvero, non per essere stupidamente ottimista, ma che la poesia abbia un grande avvenire. In chiusura, Roberto, ci lasci tutti i riferimenti internet per seguirvi? Sì, il programma completo si può vedere sul sito del Poesia Festival, che è www.poesiafestival.it. Ricordiamo, 14ª edizione del Poesia Festival in 9 comuni modenesi dal 17 al 23 settembre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Roberto Alperoli. Roberto, un abbraccio, grazie, in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie.